erano in pericolo. È molto facile contrarre la malattia e l'opposizione deve essere pronta fin dalle prime ore del mattino. Non è semplice opporsi, ma è il livello minimo e anche massimo di soluzione nota, anche se in realtà, almeno fino ad oggi, non ha quasi mai veramente rappresentato una soluzione. Una volta contratta, la malattia è in buona sostanza interna, irreversibile e incurabile. Le persone siedono molte ore, specie parenti stretti, osservandosi e incolpandosi a vicenda senza parole del loro stato. Ogni tanto il rumore di un'ambulanza, un po' lontano, un po' vicino, ricorda dove si trovano e che non è più un suono innocuo, come quando da borghesi ridevano nel loro modo e mondo consueto. Erano in pericolo.